giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Caporalato fra le vigne, lavoratori sfruttati, rinchiusi in dormitori fatiscenti, la finanza di Gorizia arresta 4 persone. 2 anni in meno in carcere per il compagno di Aurelia Laurenti, nel 2020 l'accoltellò a morte il marito nella loro casa di Roveredo. In gravi condizioni l'operaio, vittima ieri di un infortunio sul lavoro a Polcenigo, è stato trasferito all'ospedale di Udine. Più di 1000 segnalazioni in un anno alla Corte dei Conti, nel mirino danni erariali in sanità, contributi pubblici, assenteismo. Un anno di aiuti, 12 mesi fa l'aggressione russa all'Ucraina, l'accoglienza dei profughi, bambini e famiglie. Transizione ecologica, carenza di autisti, carenza di supporti, problemi dell'autotrasporto regionale nell'assemblea FAI a Udine. 7:19 minuti di sabato 25 febbraio, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito il meteo, il cielo è da nuvoloso a coperto, le temperature registrate alle 6 a Trieste 10 gradi, a Gorizia 9, a Udine 8 gradi e mezzo, a Pordenone 7 gradi e mezzo, a Tarvisio 6 gradi, a Tormezzo 5 gradi e mezzo, sul Piancavallo 4 gradi, a Forni di Sopra 3, a Sappada 1 grado, sul Monte Zoncolan meno 2 gradi, sul Lussari meno 1, a Lignano 10 gradi, a Grado 9. Le previsioni dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per oggi: cielo nuvoloso coperto su pianure costa, specie a est, minore nuvolosità in montagna, soprattutto a ovest. Sulla costa, sull'Isontino e nella zona di Trieste saranno possibili piogge moderate al mattino e verso sera. Sul resto della regione possibile qualche precipitazione sparsa, intermittente. Sulle zone pianeggianti possibili foschie, locali nebbie. In apertura la cronaca e l'indagine sul caporalato della Guardia di Finanza di Gorizia. 4 le persone arrestate accusate di aver sfruttato 30 lavoratori irregolari, tra cui 2 minorenni, nelle campagne dell'Isontino e della Bassa Friulana. Una telefonata anonima il 30 dicembre alla Guardia di Finanza di Gorizia di un cittadino rumeno spaventato che raccontava di un amico sfuggito allo sfruttamento nei campi al quale erano ancora costretti i suoi connazionali. E uno screenshot di una foto da Facebook hanno portato le fiamme gialle di Gorizia in un solo mese e mezzo di serrate indagini coordinate dalla Procura a entrare all'alba del 16 febbraio in 4 dormitori tra Romans di Sonzo, Bicinico e Torviscosa, ambienti in cui 3 rumeni e un moldavo, ora indagati per sfruttamento e minacce della manodopera, rinchiudevano a chiave 30 braccianti rumeni, tra cui anche uno di 15 e l'altro di 17 anni, dopo che avevano lavorato nei vigneti per almeno 10 ore per 6 euro al giorno. Il capitano della Guardia di Finanza, Antonino Ingrasciotta. Le condizioni erano di gravissima precarietà, erano ammassati in spazi assolutamente non idonei a quel numero di persone, senza nessun tipo di privacy, senza nessun tipo di garanzia igienica e sanitaria. A volte abbiamo trovato anche per 20 persone un solo bagno. I muri sporchi, lenzuola e letti sporchi, condizioni di vita veramente di estremo disagio. I braccianti venivano trasportati nei vigneti con dei furgoni e spesso non dormivano nello stesso dormitorio della notte precedente. La logistica veniva scelta dai 4 caporali in base alla vicinanza dei terreni da lavorare. Per l'intera stagione ai braccianti venivano requisiti documenti. Per i 3 rumeni, padre, madre e figlio, il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, mentre il moldavo ha l'obbligo di dimora in attesa del processo. I 30 braccianti hanno avuto anche il supporto della Caritas, mentre procedono le indagini sui rapporti tra i 4 indagati e alcuni proprietari di terreni, una mezza dozzina circa. Il colonnello della Guardia di Finanza, Antonino Magro. La documentazione raccolta sicuramente ci orienterà in tal senso, ci darà la possibilità quindi di ricostruire quelli che erano i rapporti tra questi caporali, questi presunti caporali e i produttori locali che se ne sono avvalsi. Gorizia, Nada Cioc, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cronaca giudiziaria: sconto di pena di 2 anni per Giuseppe Mario Forciniti, che nel 2020 uccise a coltellate la compagna 32enne Aurelia Laurenti nella loro casa di Roveredo in Piano, mentre i figli dormivano. Condannato in primo grado a 24 anni di carcere, Forciniti ha accolto la proposta di concordato della Corte d'Assise d'Appello di Trieste. La proposta avanzata dalla Procura Generale è una sorta di patteggiamento. In cambio, la difesa di di Forciniti hanno rinunciato a far valere i motivi d'appello che puntavano al riconoscimento dell'attenuante della provocazione e alla revoca dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. In merito, l'avvocato di parte civile Antonio Malattia ha commentato: questo processo sconta il peccato originale che la procura di Pordenone non ha contestato una serie di aggravanti all'imputato, precludendosi la possibilità di proporre a sua volta appello. E si sono aggravate ieri le condizioni dell'operaio di origine rumena rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Polcenigo. L'uomo è stato trasferito nel tardo pomeriggio dall'ospedale di Pordenone, che lo aveva inizialmente accolto, a quello di Udine. L'operaio ieri è stato colpito alla testa dalle pinze di un muletto e ha perso conoscenza. I colleghi hanno allertato il 112, la SORES ha attivato un'automedica, ma non l'elicottero, che non è potuto intervenire per le condizioni meteo. L'uomo era stato trasferito subito in codice rosso in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone, da cui poi, come detto, è stato trasferito a Udine per l'aggravarsi della situazione. Ancora cronaca, malora fatale per un uomo di 73 anni del Goriziano a rientro da un'escursione con le ciaspe sopra collina di Forniavoltri, escursione compiuta in un gruppo numeroso. La chiamata al numero unico per l'emergenza 112 è arrivata poco prima delle 20. La SORES ha inviato sul posto i soccorritori della stazione di Forniavoltri del soccorso alpino con il defibrillatore, la Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco, l'ambulanza. Immediatamente i compagni di escursione hanno iniziato a praticare massaggio cardiaco, ma sono stati inutili tutti i tentativi di salvare l'uomo. Le operazioni si sono concluse alle 22. E incendio nella tarda serata di ieri in un locale adibito a deposito a Varmo. Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco con un autobotte e il nucleo NBCR hanno evitato che le fiamme si propagassero alla casa e alle altre strutture adiacenti. Previste verifiche per accertarsi che non ci siano residui nocivi nei prodotti della combustione. L'incendio non ha coinvolto persone. Come ogni anno, la Corte dei Conti regionale ha presentato la sua relazione. Oltre 1000 le segnalazioni pervenute nel 2022 e recuperati 4 milioni di euro in 3 anni. Serve vigilare sulla spesa amministrativa, ancora di più ora che va attuato il PNRR. Lo ha ricordato la procuratrice regionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia, Tiziana Spedicato, in occasione dell'inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Il carico di lavoro è in crescita, ma il personale a disposizione è ancora insufficiente. Servono nuovi concorsi pubblici per attirare giovani, dice, e poi la capacità di trattenerli. Nel mirino della procura figurano i danni erariali nel settore sanitario, la mala gestio dei contributi pubblici, l'assenteismo fraudolento. Tiziana Spedicato, procuratore regionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia. In questa regione non abbiamo casi di cattiva gestione delle risorse pubbliche generalizzati, abbiamo dei casi che perseguiamo con attenzione ed interesse. Nel 2022 sono pervenute 1034 informazioni di danno e 604 sono diventate fascicoli. Soltanto con l'attività istruttoria, cioè con indagini, la procura ha recuperato 257.000 euro, che diventano 4 milioni se si guarda all'ultimo triennio. Tra i casi significativi affrontati c'è l'impresa agricola che ha dovuto risarcire quasi 900.000 euro per aver richiesto fondi su campi che non possedeva, o il medico che prescriveva oppiacei a pazienti non suoi per un danno di 104.000 euro al sistema sanitario. Ma in campo sanitario ci sono anche i danni da malpractice, che per 2 casi hanno portato a un risarcimento totale di 500.000 euro, contestati a 4 dirigenti sanitari e a un'ostetrica per i gravi danni causati in 2 situazioni diverse a una donna e a 2 neonati. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Un anno fa iniziava l'aggressione russa all'Ucraina. In tanti, in tutto il Friuli Venezia Giulia, i volontari che hanno aiutato i profughi della guerra, una rete che cerca di assicurare una sistemazione ma anche lavoro e formazione. Ad un anno dallo scoppio della guerra sono variegate le situazioni di vita dei 6.000 ucraini che si sono fermati in Friuli Venezia Giulia. C'è chi fa spesso su e giù dall'Ucraina tramite la rete di corriere che si è formata progressivamente, c'è chi ha fatto ritorno in una zona sicura del paese e c'è chi è transitato nel sistema di accoglienza gestito dalle prefetture, che oggi conta 1.000 ucraini, a causa delle difficoltà delle famiglie ospitanti a far fronte alle spese. Sottolinea la necessità di potenziare l'accoglienza diffusa non solo per gli ucraini, ucraini, ma per tutti i migranti, la presidente della cooperativa Murice di Gorizia. In un appartamento messo a disposizione gratuitamente da un privato, oggi vive Alina con la famiglia. Il marito adesso lavora, che è molto importante, che riesce anche a mantenere bene la famiglia e aiutare moltissimo. Lei è anestesista e piacerebbe lavorare, però non sapendo la lingua, ho dovuto prima iniziare a imparare bene la lingua. Il loro figlio è uno degli 882 alunni degli istituti della regione, che però faticano a trovare mediatori linguistici. Ne hanno uno, anche esterno, solo il 44% delle scuole. Ancora attive sul territorio le raccolte di beni di prima necessità. A Udine e dintorni l'associazione Ucraina Friuli da un anno fa da punto di riferimento. Incontriamo i suoi volontari mentre allestiscono una mostra fotografica sotto la loggia del Lionello. Victoria Schiba, presidente dell'associazione Ucraina Friuli. Abbiamo spedito in quest'anno più di 180 tonnellate di aiuti per l'Ucraina e stiamo ancora raccogliendo. E ogni fine settimana partono 2-3 furgoncini carichi di aiuti. L'Ucraina ringrazia e non dimentica e siamo molto molto grati. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il coordinamento lavoratori portuali di Trieste ha indetto per oggi uno sciopero in segno di protesta contro il prolungarsi della guerra in Ucraina, mentre la rete Europe for Peace invita a promuovere mobilitazioni nelle città italiane ed europee a un anno dall'invasione dell'Ucraina per chiedere il cessate il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace. Ritrova Udine in piazza Matteotti dalle 10.30. Infine, a un anno dall'invasione dell'Ucraina, in continuità con la marcia a Perugia di Perugia Assisi del gruppo Tavola per la Pace, insieme alle città d'Italia che raccolgono l'appello di Europe for Peace, il Comitato Pace, Convivenza e Solidarietà Danilo Dolci ha organizzato a Trieste una marcia tra Ponte Rosso e Ponte Curto dalle 17.30. La Russia nuova, economia e storia da Gorbaciov a Putin, la conferenza di Giampaolo Caselli, economista dell'Università di Modena e Reggio Emilia, organizzata dall'Associazione Culturale Norberto Bobbio, che si terrà a Pordenone al nuovo cinema Don Bosco alle 10. Abbiamo intervistato Caselli per chiedergli che cosa abbia portato la Russia al conflitto in Ucraina. Fino al 2013, quindi anche prima di Maidan, quindi proprio non c'è stato ancora un conflitto aperto. Le radici del problema sono soprattutto il fatto che credo nella Costituzione ucraina e anche nelle dichiarazioni dei vari presidenti e primi ministri dell'Ucraina, dalla dichiarazione di sovranità del 91 in poi, avevano sempre sostenuto la neutralità dell'Ucraina. Anche perché se uno guarda la carta geografica è evidente che l'Ucraina è immerso un cuscinetto fra la Russia e l'Europa. Nella storia russa, i russi hanno sempre voluto avere almeno due paesi cuscinetto fra due zone, che sono l'Ucraina e la Bielorussia, che sta sopra l'Ucraina, che le separassero in qualche modo territorialmente, perché sono sempre state invase da Occidente storicamente. Basta pensare, non dico ai polacchi del 1613 che bruciarono il Cremlino, ma basta pensare a Napoleone e a Hitler. Nel momento in cui l'Ucraina ha dichiarato di rinunciare alla neutralità e di voler aderire alla NATO, questo è stato il motivo principale, io credo, poi ce ne sono forse anche altri, che ha fatto vedere la linea rossa che Zelensky non doveva superare. Gliel'avevano detto anche, cioè lui lo sapeva. Questo è il motivo. Se l'Ucraina entrava nella NATO, i missili, diciamo, della NATO erano neanche a 5 minuti dalla Torre Spasskaya del Cremlino, lei capisce che la cosa non può piacere ai russi. 120 generatori elettrici sono stati consegnati dal gruppo industriale Daniele di Butrio a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Turchia. Il carico partirà domani dal porto di Trieste. I generatori sono stati recapitati nella sede della Protezione Civile Regionale a Palmanova, individuata come hub nazionale per lo smistamento e la selezione degli aiuti umanitari provenienti da tutta Italia. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara sarà oggi a Basovizza alle 15 per visitare il monumento e il museo museo nell'ambito di un viaggio istituzionale nei luoghi del ricordo organizzato dal Ministero con le istituzioni scolastiche. L'evento, incluso nel concorso nazionale 10 febbraio a Mattesponte, ricostruire l'esistenza dopo l'esodo tra rimpianto e forza d'animo, coinvolgerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli di Caneva Polcenigo. Il Partito Democratico in Friuli Venezia Giulia si prepara alle primarie di domenica, di domani, quando saranno allestiti 120 seggi, 17 a Trieste, 17 a Gorizia, 26 a Pordenone e 60 a Udine, con l'ausilio di 500 volontari. Si vota dalle 8 alle 20, presentando un documento d'identità, la tessera elettorale 2 euro. Tutti possono esprimere la propria preferenza, anche chi non è iscritto al partito, e sono ammessi anche i voti dei minorenni dai 16 anni e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno. Sulle schede gli elettori troveranno i nomi dei due candidati alla segreteria del partito, Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, e la deputata Elli Schlein. Partendo da Trieste, poi a Gorizia, Venzone, Pordenone, infine a Udine, la lista a patto per l'autonomia si è ufficialmente presentata in tutta la regione con il candidato alla presidenza del Friuli Venezia Giulia Massimo Morettuzzo. Sono 43 i candidati, la maggioranza 23 donne. Al centro dell'agenda politica, ha detto Morettuzzo, ci sono la sanità pubblica che deve dare risposte alle esigenze delle cittadine e dei cittadini e affrontare sfide gigantesche nella consapevolezza che bisogna cambiare, ha detto Morettuzzo, direzione rispetto all'amministrazione Fedriga. Poi il rapporto tra lavoro e ambiente, con processi sociali ed economici capaci di costruire paradigmi più inclusivi e sostenibili, la transizione energetica ed ecologica. A Udine in via Pieri, dalle 14 siamo agli appuntamenti politici odierni, dicevamo Udine in via Pieri, dalle 14 si svolgerà un presidio statico della lista civica Liberi Elettori, Io Amo Udine, di cui è candidato sindaco Stefano Salmè, per sensibilizzare la cittadinanza sulle criticità relative al pronto soccorso di Udine e in generale dell'ospedale. Tra le proposte della lista, quella dedicata al sindaco, primo garante della salute del cittadino. Il candidato sindaco del centro-sinistra Alberto Felice De Toni attraverserà anche oggi Udine da sud a nord, prima tappa alle 8.30 al bar del Bocciodromo di Cussignacco, alle 9.45 sarà al bar Franzolini in via delle Fornaci, poi all'osteria il caminetto Ala e Paco alle 11, al Paco Berzanti alle 12.15, il tour si chiuderà alle 13.45 alla Ancona 2 in viale Tricesimo. A Udine alle 14.30 all'Hotel Astoria di piazza 20 Settembre, conferenza stampa di presentazione dei candidati della Lega per le 5 circoscrizioni del Friuli Venezia Giulia in vista delle elezioni regionali. Saranno presenti il coordinatore regionale Lega Marco Dreosto, il governatore Massimiliano Fedriga e i coordinatori provinciali della Lega delle province di Udine, Pordenone, Trieste e Gorizia. Fratelli d'Italia Pordenone organizza una conferenza stampa dal titolo Pordenone, Trieste e Roma, il buon governo di Fratelli d'Italia alle 11.30 nella saletta superiore del Palace Hotel Moderno a Pordenone, incontro con i candidati di Fratelli d'Italia alle prossime regionali e amministrative. Interverranno il ministro Luca Ciriani, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malane, il coordinatore provinciale onorevole Emanuele Loperfido. L'incontro pubblico 100 giorni azioni del governo Meloni è previsto a Gradisca di Sonzo nella sala convegni dell'Hotel Franza alle 17. Sarà presente Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato della Repubblica. Le tappe della trasmissione ecologica, la carenza di autisti e la mancanza di supporti sono tra gli argomenti in discussione nell'assemblea dell'Associazione Autotrasportatori della Regione, a cui parteciperà anche Paolo Uggè, presidente nazionale dell'associazione. L'evento è in programma a Udine, alla sala convegni del mercato ortofrutticolo in Piazza dell'Agricoltura dalle 10.15. A Giulio Zilio, segretario regionale FAI, abbiamo chiesto quale sia il quadro attuale dell'autotrasporto in Regione. È un quadro sicuramente di profonda incertezza. È già da qualche mese che tutti i segnali che noi riceviamo come associazione di categoria è di forte preoccupazione per un calo di lavoro che è iniziato grosso modo tra dicembre, è continuato nel mese di gennaio e continua ad esserci ancora nel mese di febbraio. Ci sono sicuramente delle forti problematiche che derivano da delle risorse che erano state già decise nel 2022 di cui ne sono ancora state erogate. C'è quindi una difficoltà proprio burocratica, non una mancanza di risorse, ma proprio una difficoltà burocratica nel distribuirle. Ci riferiamo agli 85 milioni che sono stati decisi nel 2022 con il decreto aiuti ter, i 200 milioni messi in finanziaria per il 2023 di cui non si ha ancora nessuna traccia e la rimanenza di tutto quello che non è stato speso nel 2022 con un intervento di urgenza quando il gasolio è andato alle stelle. Ci sono fortissime difficoltà, insomma, col tempo che è stato dimostrato, che è stato detto più volte anche a livello nazionale. In Friuli Venezia Giulia abbiamo sicuramente tutti questi problemi e possiamo anche dire che noi, essendo una regione di frontiera, subiamo una concorrenza sempre fortemente aggressiva, quindi ovviamente un prezzo del gasolio che è molto alto penalizza da subito una regione come il Friuli. Ricordiamoci che gli sconti regionali che vengono dati sono per i privati, sono per le automobili, non, lo sconto regionale non è a favore dell'autotrasporto. Sono una sessantina i negozi che a Udine oggi aderiscono all'iniziativa di Confcommercio dello Sbaracco, a cui se ne aggiungono oltre 100 dell'ex provincia. L'evento del cosiddetto Fuori Tutto per la prima volta è previsto in data unica in tutta la regione, prevede la vendita con sconti fino all'80% di abbigliamento, calzature, arredo, accessori ed è stato organizzato in tutte le quattro ex province del Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di studenti delle superiori diventati inviati per un giorno in un progetto dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, producendo due video dedicati alle tematiche ambientali di aria e acqua. A monte di quello che hanno detto gli esperti, come miglioreresti il tuo stile di vita? Credo che prima di tutto mi impegnerei più al riciclo dell'acqua. Una quarantina di studenti del liceo artistico Enrico Galvani di Cordenonse e dell'istituto tecnico dell'Edda Fabiani di Trieste hanno lavorato per 6 mesi alla progettazione, ripresa e montaggio di 2 video, uno dedicato all'aria e uno all'acqua, coordinati dal Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale di ARPA FVG, con la regia di Pietro Pellizzieri e la partecipazione della conduttrice Roberta Cannata. Il progetto Inviati per un giorno rientra tra le numerose iniziative che ormai da anni ARPA porta avanti per coinvolgere le giovani generazioni sul problema della sostenibilità ambientale. Fulvio Stell, dirigente ambientale di ARPA FVG. Per noi è stata un'esperienza molto importante perché ci ha permesso di capire anche, renderci conto di quella che è una situazione un po' di preoccupazione che i ragazzi soprattutto hanno nei confronti del futuro. Questa è un po' forse una peculiarità del momento storico in cui stiamo vivendo. Per noi è stato importante rendercene conto anche perché ci aiuterà in qualche modo anche a trasmettere quelle che sono le informazioni corrette dal punto di vista ambientale. I problemi ambientali ci sono, molti di questi vengono anche messi in evidenza dall'agenzia, però ci sono anche le consapevolezze, le conoscenze, le tecniche per poterli risolvere. Quindi i ragazzi non sono soli a dover affrontare quello che è in qualche modo la crescita verso il futuro, le istituzioni ci sono e l'agenzia c'è. Nei prossimi giorni i 2 video saranno pubblicati sul sito di arpa.fvg.it. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà dedicata all'insegnante di musica e benefattrice Pia Baschiera all'area verde antistante la stazione ferroviaria di Pordenone, l'appuntamento alle 15, poi nel Duomo di San Marco alle 18, una messa in memoria. 4 sale, oltre 60 immagini per raccontare il lavoro con cui furono salvate opere d'arte e monumenti all'indomani della distruzione della Seconda Guerra Mondiale. Stiamo parlando della mostra Guerra all'Arte, ospitata a Villa Manine di Passariano, che sarà visitabile sino al 14 maggio. Ce ne parla la curatrice Rossella Sommer. Questo discorso della tutela in questo momento è diventato fortemente sentito un po' da tutti. mentre quando noi abbiamo cominciato questo studio di fatto volevamo semplicemente documentare l'impegno e la volontà di tutelare il patrimonio culturale, peraltro diffusa in tutta Europa dopo i gravi danni dei bombardamenti della Prima Guerra Mondiale. E quindi le soprintendenze avevano stabilito una serie di procedure per la difesa del patrimonio. Per quanto riguardava gli edifici e il patrimonio e le sculture, e le opere d'arte diciamo inamovibili, erano state scelte diverse soluzioni che andavano dal tamponamento con mattoni e muratura a sacchi di sabbia e di alghe, impalcature e anche contro pareti di mattoni. Invece per le opere d'arte mobili, sia le collezioni pubbliche sia le collezioni private venivano raccolte, venivano protette in casse di legno e venivano accentrate in luoghi sicuri. Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Gli spettacoli, la compagnia dei Mumenschanz in 50 Years a Pordenone al Teatro Verdi alle 20:30. Per la musica il pianista iraniano Ramin Bahrami inaugurerà l'attività 2023 dell'Accademia di Studi Pianistici Antonio Ricci a Udine a Palazzo Antonini alle 18. Supermarket, Modern Musical Tragedy, lo spettacolo di Gipo Guarrando a Udine al Teatro Nuovo alle 18 e alle 21. Ancora musica, l'ultimo concerto della rassegna Note di Spezie è previsto a Duino Orisina al Collegio del Mondo Unito alle 20. Dove sono le lucciole, viaggio nel mondo poetico di Pasolini, spettacolo diretto da Luca Radaelli a Casarsa della Delizia, Teatro Pasolini alle 20:45. Il soprano goriziano Claudia Maviglia si esibirà nel concerto di musica classica e lirica a favore di Anfas Onlus a Gorizia, al Kulturni Bratoš in viale 20 settembre alle 20:30, ingresso libero. Le eventuali offerte verranno devolute ad Anfas Gorizia per la creazione di una stanza informatica per ragazzi disabili. E ora lo sport, niente impresa per la Pallanuoto Trieste nei quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia di Serie 1 a Genova. La squadra è stata superata per 12-18 dal Brescia, che accede così alla semifinale, partita in bilico per 3 tempi e mezzo. Il break dei Lombardi è arrivato solo negli ultimi 4 minuti. Ora si gioca per il quinto posto, oggi alle 15 la sfida con il Posillipo, battuto nei quarti di finale dall'Ortigia Siracusa per 15-11. Pallanuoto femminile in Serie A, nella sesta giornata di ritorno la Pallanuoto Trieste giocherà contro la Rarinantes Florenzia a Trieste, la piscina Bruno Bianchi alle 18:30. Sport invernali, combinata nordica, i campionati mondiali di Planitza, prima gara individuale maschile che prevede il salto dal trampolino piccolo e 10 km con gli sci da fondo. Al via anche il carnico Alessandro Pittin, che ha mostrato di essere in crescendo di condizione nelle gare di avvicinamento al mondiale sloveno. La prova di salto alle 10, alle 15:30 il fondo, assente per indisposizione il tarvisiano Raffaele Buzzi. In gara anche i saltatori, ieri Francesco Cecon ha superato le qualificazioni ottenendo una misura di 95 metri e mezzo, 33esimo posto e migliore degli italiani. La prima serie di salto inizierà alle 17. Il calcio in Serie C, la Triestina è impegnata oggi a Rocco contro la Juventus Next Gen per cercare punti fondamentali verso la salvezza. Inizio alle 14:30. Basket a due femminile, la Delser Women Apom giocherà al Palazzo Benedetti di Udine contro Bolzano alle 19, il Futurosa Trieste alla stessa ora incontrerà in casa la Corazzata Milano. Volley per la due maschile, la Tinet gioca a Prata contro la Consar Ravenna, che in classifica precede i pordenonesi di un punto, inizio alle 20:30. Per la pallamano, nell'ottava giornata del girone di ritorno del campionato, la Pallamano Trieste giocherà contro lo Spare Repan al Palazzurri in via di Calvola alle 19. Sette e 46 minuti, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola. Le parole del ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso in merito al progetto di collegamento connesso al corridoio ferroviario autostradale Trieste-Kiev aprono l'edizione di Trieste del piccolo Fotonotizia per il caso Esontino di Caporalato, di cui vi abbiamo dato notizia, mentre il capocronaca è per il temporaneo trasferimento alla centrale idrodinamica del corso di infermieristica dell'Ateneo Cittadino. Nell'interno si legge dello slittamento al 21 marzo della riapertura della galleria Foraggi a causa della difficoltà nel reperire materiali. Dalla pagina di Duino Aurisina la polemica in merito alla PPN, azienda che gestisce una parte dei servizi di Porto Piccolo ed è in cessione in un contesto di situazioni debitorie. Il sindaco Igor Gabrovec ha ravvisato un collegamento tra la società in cessione e il candidato acquirente. Collegamento che però è stato negato dall'opposizione. Permane intanto la difficile situazione in cui versano i dipendenti dell'azienda. Il percorso della Donata degli Alpini in apertura del Messaggero Veneto di Udine. Ieri c'è stato un nuovo incontro in prefettura, ma il percorso non è ancora stato ufficializzato. A centropagina un ritratto di Maurizio Costanzo, il giornalista autore appena scomparso. Di spalla la sequenza di immagini dal giro di sfruttamento di operai agricoli in Friuli e nell'Isontino, smascherato dalla Guardia di Finanza, 4 arresti per caporalato. In taglio basso, pieno di benzina mista d'acqua, decine di automobilisti in panne, danni anche ai distributori. Accanto la mostra di Villa Manin sul salvataggio delle opere d'arte dopo la guerra. Ad aprire la cronaca cittadina, la politica in vista delle elezioni, Fontanini dice ci sono i fondi per i passaggi a livello. Sotto lo sfidante De Toni dice Udine merita di tornare a essere testa pensante del Friuli e sottrarsi alla marginalità. Omicidio, niente sconto al vicino, il 41enne Vincenzo Paglialonga accusato di aver colpito con 36 coltellate la 74enne Lauretta Toffoli, sua vicina di casa a Udine. Apre su questo tema il Gazzettino inserto del Friuli. Nella fotonotizia, Super Enalotto ha vinto un operaio di Camino che ha scritto un messaggio sui social. Caporalato in vigna, 3 in manette tra Romanze Bassa, di spalla la sanità, assunzioni impossibili sotto anche i medici nel mirino della Corte dei Conti. Il caso di Caporalato di cui vi abbiamo dato conto è l'apertura del Piccolo di Gorizia, che dedica la fotonotizia alla testimonianza dei due vigili del fuoco goriziani tornati dalla missione di aiuti alla Turchia devastata dal terremoto. Capocronaca la possibile riapertura in primavera del giardino Viatori, che dovrebbe ricominciare ad ospitare eventi. Sono poi in corso trattative con la regione per trasformare in un parcheggio l'ex vivaio dismesso della Guardia Forestale. Dalla pagina di Monfalcone la polemica seguita all'assegnazione del premio per l'originalità, assegnato appunto alla maschera di Messina Denaro dal concorso carnevalesco di Staranzano. Capocronaca della pagina della Città dei Cantieri, un reportage sul reparto di oculistica dell'ospedale San Polo, che opera in pieno regime. Lo scorso anno ha effettuato 500 interventi in più rispetto all'anno precedente. Accoltellò la compagna appena ridotta l'apertura del Gazzettino di Pordenone per lo sconto di 2 anni al compagno di Aurelia Laurenti, Giuseppe Forciniti, nella fotonotizia. Allarmi e finte esplosione alla base USAF di Aviano, sono previste esercitazioni speciali. Poi autista colpito alla testa in ditta, lotta per sopravvivere sul infortunio sul lavoro a Polcenigo. Di spalla a Sacile troppo smog, scatta le targhe alterne a Pordenone, Università, Commercio e Parcheggio al Molino. E anche sul Messaggero Veneto di Pordenone in prima pagina ci sono le targhe alterne causa inquinamento che scattano a Sacile e il grave infortunio sul lavoro di Polcenigo. Il voto del 2-3 aprile in regione è con vademecum sulla presentazione di liste e candidature. Domenica 2 aprile dalle 7 alle 23 e lunedì 3 aprile dalle 7 alle 15 si vota per l'elezione del presidente della regione e per il rinnovo del consiglio regionale, oltre che per 24 comuni. I partiti e i gruppi politici, ad esclusione dei casi di esonero previsti dalla legge, devono raccogliere le firme per poter presentare liste e candidature. Per le elezioni regionali, le candidature devono essere depositate a Udine, presso la sede della Regione, dalle ore 8 alle ore 20 del 25 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12 del 26 febbraio. Per le elezioni comunali, le candidature devono essere depositate presso le segreterie dei comuni dalle ore 8 alle ore 20 di lunedì 27 febbraio e dalle ore 8 alle ore 12 di martedì 28 febbraio. Maggiori informazioni sulle elezioni regionali e comunali sono disponibili sui siti regione.fvg.it, rai.it e sulle pagine di Televideo. Ora le rubriche della TGR sul terzo canale televisivo Rai, oggi in onda il settimanale, un'anticipazione degli argomenti. Torna il settimanale in questa puntata il fenomeno delle dimissioni dal lavoro, 1.600.000 nei primi 9 mesi del 2022, per capire perché siamo andati in Basilicata. L'Ortica di Milano, da quartiere di fabbriche a quartiere museo, rinato con murales e balere. Nuotare al ritmo della musica, un progetto arrivato fino ad Harvard da Iglesias. Nella neve da Castelluccio di Norcia alla vetta più alta dell'Umbria. La moda dei ritratti in cera nel Settecento a Bologna. Antonio Carecca è il Napoli di ieri e di oggi. La pera picciola, frutto raro, tipico del versante senese della Miata. Oggi nel settimanale 12:25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11:30 con Biblos, spazio all'anima friulana della redazione di Mangialibri. A seguire Renzo Brollo e il suo ultimo libro Prima che Lignano cancelli i nostri passi, e poi ancora Le figlie del generale di Isa Mimoza, scrittrice e traduttrice albanese invitata a Trieste a parlare della vita sotto la dittatura. In regia Mauro Ciccarelli e Carlo Morello, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Da Maria Spezia e Rita Micoli grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.